avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Good morning. Buongiorno, sono Rupert Murdoch e sono onorato di darvi il benvenuto al lancio del The Daily, una pubblicazione di quotidiani per l'iPad che abbiamo creato dal nulla. Una nuova epoca chiede un nuovo tipo di giornalismo. Le risorse che abbiamo oggi nelle nostre mani ci chiedono un nuovo servizio, un nuovo editing, un nuovo design specifico. Una sfida per portare il meglio del giornalismo tradizionale in competizione con tutti i tipi di giornalismo e per combinare tutti i vari tipi e di tecnologia moderna a 360 gradi, una grafica che corrisponde a tutte le innovazioni. Dicono che sia la terza via rispetto ai giornali cartacei, rispetto al web. Ieri con una grande operazione mediatico-paraculesca Murdoch ha presentato il suo giornale su iPad. Già ne esistono tanti di giornali in versione iPad, già con molti amici e molti colleghi dividiamo il rituale mattutino dell'entrata nella toilette con l'iPad sotto braccio e si esce di casa che uno già comunque ha l'idea di quello che sia accaduto, perlomeno quello che è apparso sui giornali più importanti del nostro paese. Io che poi prendo le metropolitane mi rendo conto che in realtà lo strumento più innovativo di diffusione popolare delle notizie è la Free Press al momento. Non ho mai visto tante persone la mattina avere immediata consapevolezza degli accadimenti nel mondo con quei giornalini gratuiti che poi diventano carta straccia nel giro di qualche ora, ma però prima di diventare carta straccia, prima di entrare nel cestino della spazzatura, prima di essere calpestati da decine di piedi inconsapevoli, sono passati almeno per 4, 5, 6 mani di persone di tutti i tipi, di stranieri, di massaie, di studenti, e hanno visto le quattro cose essenziali che c'era da sapere. Io mi sono fatto l'esperimento qualche mattina, ho anteposto ad ogni lettura, ad ogni mazzetta che mi viene fornita nei vari luoghi in cui mi produco professionalmente, leggendo solamente quei 3-4 giornaletti che mi venivano messi in mano, appoggiati prima di entrare appunto alla metropolitana. Beh, le tre cose da sapere le sapevo, le quattro cose importanti senza le quali non ci si rende conto come gira il mondo le sapevo, di ciò che sta accadendo e accaduto in Egitto fino alla notte tarda di ieri. Io questa mattina l'ho saputo guardando la Free Press. Cosa non avrei saputo in realtà guardando invece i gradi di attenzione che danno grandi giornali rispetto alle grandi notizie del mondo, rispetto alla percentuale di attenzione che bisogna dare al Bunga Bunga rispetto ai morti in piazza, all'assalto dei cammelli, a ciò che accadrà quando anche questa porta verso l'Oriente sarà in qualche maniera resa più difficile. Beh, di questo parleremo questa mattina. Questa mattina vorremmo capire dove sta andando l'informazione, attraverso quali canali ancora arrivano alle orecchie dell'utente finale, quelle che vengono chiamate notizie. Qual è il grado di attenzione delle notizie, qual è la gerarchia delle notizie e come si creano, come si formano, perché l'iPad telematico di Murdoch è una bellissima cosa, una fantastica cosa, ma ancora prima che arrivi nelle mani della signora o dell'affrettato signore che la mattina si legge 3-4 giornalini di Free Press, passerà secondo me un pochino di tempo. Nel frattempo come si crea l'opinione? 800 24 00 24. Questa mattina ne parliamo con un po' di ospiti, avrò parecchi ospiti rispetto la regola che normalmente abbiamo in questa trasmissione, perché voglio tastare il polso a persone che a vario titolo e sotto varie forme in realtà fanno parte della grande fabbrica delle notizie. In studio con me oggi è Enrico Cisnetto. Cisnetto, buongiorno. Buongiorno. Enrico Cisnetto è un giornalista, un editorialista di antica data, ma soprattutto è noto in quanto ideatore responsabile di Cortina Incontra, che adesso si evolverà in Roma Incontra, la stessa formula comunque trasportata nella capitale. Cos'è Cortina Incontra? Dico il mio punto di vista, che sono stato ospite, poi mi dirai esattamente sì. Cos'è. È sotto una veste familiare, amichevole, in un posto di villeggiatura, in una bella e tranquilla, amena località, si incontrano degli amici e fanno delle chiacchierate. è bravissimo in questo Cisnetto, perché è un ambiente tale in cui queste chiacchierate tutti abbiamo l'impressione di farle davanti a un caminetto insieme a 5-6 amici, ma dietro c'è una macchina di ripresa talmente forte, formidabile, di telecamere, di video che vanno immediatamente online, di giornalisti pronti a trasformare in notizia, agenzie di stampa, quello che ognuno dice, che in realtà è una fabbrica di notizie. Sicuramente sì. Noi l'abbiamo chiamata l'attualità in vacanza, e per attualità intendiamo affrontare i grandi temi dell'attualità, quelli che non si esauriscono nel giro di qualche giorno sui giornali, ma che rimangono, che sono diciamo i temi di fondo con i quali vale la pena di confrontarci. E la logica è quella di discuterne in una chiave di incontro, non a caso si chiama Cortina Incontra, e non di scontro come normalmente avviene durante l'anno in condizioni diciamo televisive, ma non solo, perché ormai la logica dello scontro delle posizioni recitate e non del gusto della discussione, magari anche per cambiare idea, è stata persa, e si è propagata questa mancanza di gusto per la discussione vera dalla televisione anche basta assistere alle discussioni tra qualcuno al bar e si capisce subito come io sono per Berlusconi, no, io sono contro Berlusconi, che è una discussione che evidentemente non porta da nessuna parte. Allora, si è risolto, abbiamo già detto, in una maniera molto manichea, molto basica, esatto, il dibattito. In Italia in questo momento o sei contro o sei pro Berlusconi, e finisce l'articolazione di ogni pensiero. Sì, ma tu hai risolto in maniera totalmente analogica, quasi arcaica, il problema dell'informazione, mentre adesso discuteremo della novità tecnologica, del gadget, di questo grande sogno, in parte secondo me illusorio, che la rete abbia portato, la diffusione del sapere, il sapere individualizzato, l'ha riportato al vecchia chiacchiera davanti al focolare. Ma quest'estate, a onor del vero, e adesso daremo anche alcune testimonianze reali, le uniche vere notizie che uscissero fuori dai balletti incrociati, dai bunga bunga, venivano da Cortina Incontra. Sì, funziona perché noi diciamo l'uso che la tecnologia ti consente di fare delle notizie e anche delle riflessioni è a valle, a monte, e quello che noi creiamo è la condizione ideale per cui le persone che parlano di certi temi siano intanto scelte per logiche, chiamiamole così, di competenze, logiche meritocratiche e non semplicemente di appartenenza, di schieramento, e secondo il fatto di creare le condizioni di tanto di clima, forse sarà che siamo in maniche di camicia col maglioncino, sarà che l'aria di Cortina è frizzante, sarà che noi siamo stati in grado di creare diciamo l'habitat giusto, ma la discussione lì è, come dicevi tu, è come se qualcuno fosse semplicemente davanti al caminetto a parlare, infatti, con un amico, e quindi si lascia anche andare, le persone si lasciano andare, accadono episodi come questo. Chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica? Io non mi auguro che sia Berlusconi, perché immaginatevi cosa succederebbe. Perché le escort al Quirinale sarebbe una cosa... Cioè tu ipotizzi i corazzieri nudi che rincorrono le escort. Sì, ci farebbero un film lì, Bobby, De Sica. Beh, questo ha fatto notizia, è stato la scintilla del divorzio, la scissione, la divergenza Sallusti-Feltri, erano la coppia indissolubile, poi ognuno è andato nel suo giornale. Quasi come Boldi De Sica. Come Boldi De Sica. Sì, però prima di Cortina Incontra questa cosa non era trapelata, il giorno dopo Sallusti sul giornale ha colpito Feltri e si è aperta la querela, poi si è risolta in pochissimo tempo, però la notizia è venuta fuori. C'è un altro caso. Berlusconi, se campa ancora 2 anni politicamente, deve avere il coraggio di mettere le palle sul tavolo e di fare le grandi riforme, altrimenti, siccome il problema della quarta settimana non ce l'ha, è meglio che se ne vada. O fa veramente la rivoluzione, o fa veramente le riforme, o se no deve dare senso al suo governo. Quindi, voglio dire, io credo che questa sia veramente la sua ultima occasione. Lui non può fare come nella prima Repubblica. Quale amaro hai fatto bere a Vespa? Quale strudel gli hai fatto mangiare? Come hai fatto a far dire queste cose a Vespa, che non avrebbe detto nemmeno sotto tortura nel suo programma? Ma guarda, non lo so, mi sono stupito un po' anch'io, ma non perché pensi che Vespa non pensi veramente queste cose o che non abbia il coraggio di dirle. È certamente, da un lato, svolge un ruolo che come dire, non gli consente di esprimersi troppo liberamente nella sua trasmissione, perché lui ha il compito di far parlare gli altri principalmente, anche se vedo che ultimamente dice sempre di più la sua autorevolmente, e non lo so come sia uscita. Certo, poi ti racconto il backstage. Allora dopo mi dice: ma le agenzie hanno ripreso quello che ho detto? E ho detto: sì, ho controllato io, ma ho fatto mettere attributi al posto di palle. Dice: hai fatto bene, però naturalmente sì, poi sul web si è visto. Siccome poi noi andiamo sul web, andiamo in diretta televisiva, andiamo, cioè, facciamo, sì, perché gli finto allies, che quella sia una cosa arcaica analogica, perché io sono questo, stata a Cortina Incontra. E questo è il gioco. Cortina Incontra è una macchina di ripresa formidabile, nel senso, è piena di telecamere. La regia di Cortina Incontra sono ragazzi che prendono, encodano e mettono online subito le cose più importanti. Quindi non si sfugge. Vespa, che è ancora legato a forme abbastanza tradizionali di giornalismo, pensa al lancio d'agenzia, ma non immagina che è già andato sul web esattamente quello che ha detto e fatto. Infatti poi molte trasmissioni televisive, cioè, le palle sono uscite fuori, sì, tu puoi dire attributi addirittura su vuoi. Addirittura su Striscia la Notizia, che è, come dire, il massimo della dissacrazione possibile. Andiamo al punto 800 24 00 24, di questo stiamo parlando questa mattina. Voi leggete le notizie sui giornali, immaginate, capite, sapete o non ve ne interessa assolutamente nulla. Qual è il meccanismo che fa arrivare al giornale, che è ancora la forma ufficialmente con maggior riconoscimento e rango di esistenza della notizia, perché anche la televisione, che è potente, forte, vive un po' di sudditanza del giornale, vive sui titoli dei giornali, vive sulle battaglie dei giornali. Ecco, sapete come arrivano le notizie? Ne avete consapevolezza? Avete qualcosa da dire? Il numero è 800 24 00 24. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno. Allora, Andrea Rossetti, professore di informatica giuridica all'Università Milano Bicocca, è la persona con cui un mese fa parlammo di Assange e di WikiLeaks, più o meno? Certo, all'incirca un mese fa, sì. All'incirca un mese fa, con Rossetti e con altri amici. Ormai 2 mesi fa. Ecco. Analizzammo il fenomeno WikiLeaks nel momento della sua massima esplosione. Io, non so poi Andrea, mi beccai come al solito l'anatema dei colleghi più illuminati dicendo: vergognati, il tuo è un insulto alla professione, hai osato mettere in dubbio una delle più genuine, spontanee, democratiche forme di informazione, finalmente qualcuno tira fuori le notizie, finalmente ha scardinato il meccanismo tetragono e impenetrabile dell'informazione. A distanza di 2 mesi, Andrea, cosa ne è rimasto di Assange? Ma direi che, come tutti possono vedere, tutto sommato è rimasto abbastanza poco, almeno sui giornali ovviamente, perché io sono convinto che comunque ci siano ancora agenzie o giornalisti che stanno studiando l'immensa mole di documenti che sono... Quanti governi sono caduti grazie a WikiLeaks? Ah beh, no, nessuno, ma anche perché, come abbiamo detto fin da subito, no, in realtà le notizie che erano diffuse non erano notizie, erano al massimo notizie riservate, ma nessuno di esse era una notizia segreta o riservata in qualche maniera, o insomma segretata in qualche maniera, quindi appunto un po' di pettegolezzi. Quello che abbiamo visto da vicino è in qualche modo la maniera in cui funziona la diplomazia attualmente in giro per il mondo, ma oltre a questo non siamo alla fine, mi sembra, andati. Ovviamente è stato un caso interessante, è un caso che fa riflettere, perché appunto le diplomazie del mondo d'ora in avanti dovranno pensare che tutto sommato le loro comunicazioni riservate non saranno più davvero riservate, ma oltre a questo, almeno fino adesso, mi sembra che non ci sia stata nessuna, insomma, le notizie che sono state tirate fuori da lì dentro non hanno generato chissà quale sconvolgimento, chissà che cosa. C'è stato un fraintendimento, no? La convinzione che democrazia si possa confondere con trasparenza, sicuramente la trasparenza è una delle componente della democrazia, ma non si può pensare che la democrazia si riduca alla trasparenza delle comunicazioni tra governi o tra impiegati dello Stato o tra politici. Insomma, ecco, io mi sono meravigliato giorni fa un'intervista a Romano Prodi, nella sua fase ormai quasi pensionata, che citava le email, internet, come i momenti più acuti, più importanti di quello che sta accadendo adesso in Egitto. Siamo ancora una volta di fronte all'ipervalutazione del web come strumento di democrazia e di sovvertimento dell'ordine costituito. Allora, questo sì, a me, ho visto anche io quell'intervista con Romano Prodi, a me ha fatto abbastanza sorridere. Allora, da una parte mi ha fatto piacere, appunto, perché un uomo ormai anziano, insomma, Prodi ha più di 70 anni, ha iniziato a rendersi conto dell'importanza di questa che esiste cosa, l'email. E questa secondo me è una cosa positiva, insomma. però lo fa con l'entusiasmo del neofita, no? Nel senso che insomma sembra che Inter di per sé sia un generatore di democrazia o di partecipazione, cosa che non è vera. Internet è uno strumento complicato, nuovo, che ha particolarità, però in realtà di per sé non porta da nessuna parte. Io ultimamente sto studiando un po' per il corso che voglio tenere quest'anno argomenti che riguardano il cyberterrorismo, e gli esperti di cyberterrorismo dicono che internet è il modo migliore attraverso i quali si reclutano nuovi terroristi. E quindi cioè, non si può quindi dire, no, che di per sé internet porti democrazia, porti trasparenza, porti partecipazione. La cosa interessante però, ripeto, di quel discorso di Prodi è il fatto che comunque un politico ormai di una certa età si è reso conto che il meccanismo un po' sta cambiando, non forse nella maniera in cui molti si speravano, si augurano, insomma, in maniera più complicata, più complessa e anche, io credo, più lenta. Sentiamo un attimo il primo ascoltatore, Daniele. Buongiorno Daniele. Buongiorno. È interessante, e volevo solo dirle, questa questione dell'utilizzare questi strumenti per leggere le notizie. Gli faccio un esempio. Io da quando ho 12 anni, e ne ho 52, che leggo i giornali quotidiani tutti i giorni, almeno il principale, il Corriere, e da quando è uscito Repubblica. Da qualche tempo non li prendo più perché li leggo direttamente, ad esempio, sull'iPad. Ma non è questo il punto. Il punto è che ho trovato attraverso internet, e non solo attraverso l'iPad è solo un mezzo più comodo per leggere queste notizie, altri canali, anche attraverso Facebook, se volete ve li cito anche, sul quale leggo le notizie che poi sento alla sera sui notiziari e il giorno dopo sulla carta stampata. Quindi la mia considerazione è che lei ha aperto il suo servizio con il suo programma con The Daily di Murdoch, e questa è la strada da seguire, cioè un giornale assolutamente staccato da quello che è la scopiazzatura di altre. Sì, guardi Daniele, io non è che ognuno si vuole mettere i galloni, mi sembra di essere stato in Italia fra quelli che più primo si è accorto che esisteva questa realtà, quando qua mi ridevano dietro, quando il Rai chiesi un modem per potermi collegare a internet, mi dissero che i computer li usavano soltanto le segretarie per scrivere le lettere ai dirigenti, quindi conosco tutto il percorso. Sono contrario all'idolatria del mezzo fine a se stesso, dicendo ciò che internet è buono, funziona, arriva prima. Oggi i quotidiani non si comprano per le notizie, ci sarà una notizia alla settimana in tutti i quotidiani italiani, in realtà si comprano per vedere le opinioni, il peso, come sono sistemate le notizie, qual è l'apertura di quello dell'altro giornale. Sono molto autoreferenziali per la categoria dei giornalisti, questo ne do atto, ma ancora svolgono comunque una loro funzione nella grande fabbrica. Cisnetto, cosa ne pensi? Ma sicuramente noi siamo inondati di notizie perché si sono moltiplicati i mezzi e la velocità di questi mezzi per farceli avere in tempo reale. Chiaro, chi va sul web vede le notizie il giorno prima, è chiaro, ride. Ma anche lo stesso uso della televisione, l'idea di avere una televisione all news come Sky che ti ripete il rullo delle notizie continuamente. Che vanifica il telegiornale, diciamo la verità. Che vanifica i telegiornali tradizionali. Quindi da questo punto di vista noi diciamo non difettiamo di notizie, non a caso. In realtà Wikileaks non ci ha svelato niente, proprio perché quelle erano informazioni che già erano passate. Io non mi sono meravigliato di nessuna delle informazioni che sono uscite da quel grande serbatoio. Viceversa, secondo me, noi difettiamo di riflessioni serie, di opinioni serie, perché purtroppo, almeno nella condizione italiana, i giornali sono prevedibilmente già schierati, e quindi io, come dire, è inutile che legga dei fondi sui giornali schierati, perché so già che diranno quello che immagino, non c'è neanche bisogno di leggerlo, perché posso già recitare a memoria quello che sarà il contenuto di quegli articoli, perché so che è sempre lo stesso refrain e non c'è nulla di, diciamo, di valore aggiunto e di imprevedibilità. Laddove si riesce a creare questa imprevedibilità, laddove si riesce a creare questo valore aggiunto di riflessione che non è scontata, ecco che lì si becca l'attenzione del pubblico e fai addirittura notizia, cioè l'opinione diventa notizia nel momento in cui esce fuori dal recinto. Se Vespa dice delle palle di Berlusconi, o se Feltri dice che è bene che Berlusconi non vada al Quirinale per via delle escort, quella cosa lì, adesso stiamo parlando naturalmente di qualcosa che è borderline con il dibattito non particolarmente alto, però quella cosa lì è fuori dallo schema, e essendo fuori dallo schema a quel punto Ostellino fa un fondo sul Corriere della Sera, mette un'opinione lievemente diversa alla linea del giornale, 50 giornalisti fanno subito una lettera indignati. Certo, infatti io che sono da quando è nata la Seconda Repubblica a favore della Terza, ma subito dal 94, evidentemente ho patito questa cosa, perché naturalmente per lungo, adesso sono tutti che hanno capito che la Seconda Repubblica è stata fallimentare, ma per molti anni sono passato per eretico, e naturalmente tu che sei eretico per definizione apprezzerai al di là del per me l'attesa della Terza è sempre piena di speranza e di apprensione, diciamo la verità. Conoscendo la Seconda, se c'è la Seconda, ammesso, diciamo quella che chiamiamo convenzionalmente Seconda. Andrea Rossetti, il campo dell'opinione. Allora, la Rete, abbiamo già capito, è velocissimo nel dare le notizie, brucia i giornali, la sera vediamo nei siti internet, nei blog, quello che il giorno dopo è già minestrina riscaldata nei giornali. Ma le opinioni in Rete, quanto hanno avuto modo di orientarsi, di crescere? Nella grande democrazia in cui tutti potranno scrivere tutti, siamo riusciti ad avere una nuova maniera per manifestare l'opinione imprevedibile, come appunto chiederebbe che ci fosse Cisnet? Ma all'inizio del fenomeno dei blog, insomma, che sono stati lo strumento che hanno permesso poi alla maggior parte delle persone di pubblicare in rete con velocità, si credeva che sarebbe stata una grande rivoluzione. Poco prima della trasmissione stavo osservando invece la mappa che hanno fatto quest'anno della blogosfera italiana, e secondo me quello che si può vedere è una struttura molto analoga a quella dei tradizionali mezzi di informazione, ossia abbiamo un numero limitato di blogger, limitato qui vuol dire alcune decine, però insomma, perché i numeri in rete sono la blogosfera cyberfighetta che denunciai anni fa prendendo. Esattamente, allora, mentre nel 2006, l'ultima volta che fece questa indagine, tutto sommato la forma, diciamo così, delle connessioni era allungata, non è che c'erano più poli in giro per la rete italiana che connettevano blog diversi, adesso questo stiramento è scomparso, c'è un unico grande blocco, insomma, che raggruppa i blogger più importanti che si linkano tra di loro, che in qualche modo fanno l'opinione in rete. In Italia è poi difficile, perché come mostrano altri studi qui americani, insomma, quindi che sicuramente non sono influenzati dalle opinioni degli italiani, in Italia il blog è sempre stato usato come uno strumento per restare in contatto con gli amici. È quindi chiaro che negli ultimi anni il blog come strumento per restare in contatto è stato soppiantato da Facebook o da altri social network. Quindi i blogger vedono come il grande Satana, lo strumento di vera democrazia, che poi ha abbassato il livello di autorevolezza dei blogger, perché chiunque può aprire un profilo su Facebook e quindi chiunque ha nuovamente diritto di pubblicazione del suo pensiero, vacuo che sia. Bisogna dire che la maggior parte dei blogger che hanno iniziato all'alba di questa stagione adesso sono diventati giornalisti o comunque lavorano per giornali come opinionisti. C'è stata proprio un'evoluzione, insomma, io ho visto un po' di classifiche, insomma, tra i primi 20 blog italiani in realtà ci sono uno, al massimo due blog di persone che non siano dei professionisti dell'informazione, quindi o dei giornalisti o delle persone che fanno marketing. Quindi Andrea, in conclusione, l'esistenza in rete è assolutamente priva di significato, se non è supportata l'esistenza in un vecchio mezzo di informazione ben referenziato. Se non scrivi sul grande giornale, tu puoi fare tutti i blog che vuoi, ma nessuno calcola quello che dici. Esattamente, il successo arriva, la notorietà arriva nel momento in cui si sfonda verso un medio di comunicazione di quelli mainstream. Infatti vedo citato un'opinione tagliente nel blog di Rondolino e Velardi, ma esiste, che sono due persone che hanno comunque ampie aperture sui mezzi sono di comunicazione. Sono Rondolino e Velardi non per il blog, esattamente. Il blog è perché c'è Rondolino e Velardi. Hanno un blog e possono scrivere quello che vogliono e la gente li riprende, è semplicemente un mezzo, nessuno riprenderebbe. 800240024, riprendiamo tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. 800240024, stiamo guardando con grande divertimento, con grande interesse, sì, perché non siamo delle persone che si stracciano le vesti, che rimpiangono il passato, che guardano con terrore al futuro. osserviamo esattamente come circolano oggi le notizie, come circolano le informazioni, su quali supporti si appoggiano, quali sono i supporti che danno più felicità all'utente, più soddisfazione, più capacità di identificarsi comunque nel mezzo che gli trasmette la notizia. Sì, perché c'è da distinguere gli addetti ai lavori, coloro che per mestiere dovrebbero perlomeno dare notizie, cercare notizie, immettere linfa vitale nel circuito dell'informazione, hanno un grande piacere anche nell'osservare il mezzo, la loro categoria, i loro sistemi, capire oggi quel giornale risponde all'altro giornale, quello ha dato quella notizia, quella persona fa l'occhiolino a quell'altra persona. È una sorta di gioco di squadra, gioco di società che si fa tra giornalisti esperti in comunicazione. In realtà chi legge il giornale è forse molto più basico, semplicemente vuole conferma di quello che lui pensa già. Secondo me chi già compra un giornale ha già una sua opinione, vuole semplicemente vedere fortificato quello che pensa. Abbiamo in studio Enrico Cisnetto, che è una persona che si muove nel campo dell'informazione, si è inventato anche una maniera di inserire notizie. Il media, mi sono si è inventato, diciamo sì, poi il media sei te, in effetti. È anche importante capire quando ci si inventa qualcosa di nuovo in questo campo, o si è degli sviluppatori di software e quindi si inventa un nuovo software che ti permette di dare una nuova lettura e fruizione di quelle che sono le fonti tradizionali, non è il mio caso. Che le fonti sono o si costruisce su di sé, diciamo, sulla propria credibilità, attendibilità, sregolatezza o rigore a seconda del punto di vista. Dago Spia è l'unico vero esempio di internet legato all'informazione Italia che abbia successo. In tutte le redazioni dei giornali, ne sei testimone anche te, il 70% dei page è Dago Spia, sì. Oh, hai visto Dago Spia? L'altro giorno aveva messo la rappresentazione grafica della pompetta erettile in tutti i quotidiani d'Italia, all'unisono hanno tutti messo quella pagina con la pompetta erettile rappresentata. Sono piccoli escamotage, però dimostrano che il mezzo funziona. Vediamo di capire adesso anche come il mezzo tradizionale, abbiamo detto il più classicamente referenziato, che è proprio il quotidiano, il giornale, la stampa cartacea, abbia avuto un'evoluzione. Molti parlano di morte dei giornali, i giornali finiranno, i giornali moriranno, andremo tutti in online. Può essere che accada, ma al momento forse non è esattamente così. Ho al telefono Enrico Pedemonte, buongiorno. Buongiorno. È un collega che ha scritto Morte e Resurrezione dei giornali, chi li uccide e chi li salverà, editore Garzanti. La domanda è nel titolo del tuo libro: chi sta uccidendo i giornali, che mi sembra che ancora abbiano una loro ragione d'esistenza, siano Free Press, siano grandi quotidiani, e già vedi all'orizzonte chi sostituirà il giornale tradizionale? Dunque, la morte dei giornali mi sembra che sia evidente dai dati che abbiamo sotto gli occhi. In Italia negli ultimi 10 anni i quotidiani hanno perso il 32% delle copie, il Sole 24 Ore ha perso il 37%, il Messaggero il 33% e così via. Aumentano i mezzi per informarsi, la gente dice ma perché devo comprare il giornale, già so tutto, che me lo sono visto in internet o me l'hanno regalato nel giornalino la mattina nell'autobus. Aumenta il mezzo con cui si acquisiscono le notizie, diminuisce il tempo da dedicare a ciascun media e quindi il numero dei giornali decresce, il ruolo sociale dei giornali diminuisce. L'ultimo rapporto del Censis dice che il ruolo dei giornali in Italia è ormai marginale. In questo momento, proprio nel 2011, secondo me assisteremo a un'esplosione di proposte alternative. Per la prima volta dopo 10 anni, sono 10 anni che ci si domanda, sì, i giornali muoiono, ma qual è il modello di business alternativo? Ecco, il problema è quello, chi tiene in piedi i giornali, che in realtà in un'editoria pura dovrebbe essere il provento delle vendite, ma poi ci sono anche gli aiuti statali, sono altre cose, comunque sia, diamo per assurdo, il giornale si mantiene con la pubblicità che inserisce nelle sue pagine. Come si spostano, diciamo, questi grandi masse di investimenti pubblicitari dai giornali in internet, dai giornali e altre forme di giornali? Forse è questo il problema. Ma non è solo questo, nel senso che ormai tutti sono arrivati alla conclusione che difficilmente i giornali, se un giornale andasse su internet abbandonando la carta, difficilmente riuscirebbe a sopravvivere. E questo perché, non manterrebbe i giornalisti che lo scrivono, questo è chiaro. Certo, al momento, anche perché la pubblicità andando su internet si disperde su mille rivoli, non si concentra sui quotidiani. Voglio ricordare una cosa molto banale. Il tempo dedicato sul tempo complessivo che noi dedichiamo a internet noi dico 23 milioni di italiani, che 23-25 milioni di italiani che vanno su internet, il tempo dedicato alla lettura della news è il 3%. Quindi anche su internet la lettura delle news è un fenomeno assolutamente marginale, quindi la pubblicità si redistribuisce tra mille canali. Sì, lo so, che mi sono occupato di queste cose anni fa, in effetti chi veniva a mettere la pubblicità nelle pagine web dice: ma delle news non ce ne importa nulla, ce ne sono talmente tante, uno fa Google News, c'ha tutte le notizie, deve perdere tempo a fare altri notiziari quando già abbiamo tutto, investite in... ma infatti gli italiani, non so, usano internet per giocare, sono enormi giocatori, usano internet soprattutto per andare su Facebook, il tempo su Facebook, da, sì, il social network. Sono 23 milioni di italiani che vanno su Facebook 9 ore al mese in media. Ci sono 13 milioni di italiani che vanno a leggere le news 45 minuti al mese. Quindi la rete è uno strumento sociale, uno strumento di socializzazione, è una protesi emozionale, come sto dicendo da una decina d'anni, ma mi prendono tutti in giro, ma è un accrescimento della propria soddisfazione individuale nel relazionarsi. Allora, questi nuovi modelli di business che stanno nascendo sono vari. Il primo di cui si parla in questi giorni è il Daily di Murdoch, che ha un approccio molto estremista. Dice: usiamo i tablet, andiamo sul tablet di Apple, facciamo un giornale che assomiglia moltissimo al giornale tradizionale, solo che si sfoglia sulla tavoletta elettronica. Quindi è un problema di software avanzato, lo dicevamo prima con Cisnetto, chi si inventa il più bel software per avere un giornale poi scaricabile, usufruibile, ritagliabile, tutto, vincerà. Io non sono d'accordo, la tavoletta di Apple è una tavoletta chiusa. Murdoch sta cercando di abbandonare il web, che è invece una struttura aperta, e secondo me susciterà molto rapidamente una ribellione tra i consumatori, perché addirittura Apple non vuole che i lettori clicchino su qualcosa che li porti fuori sul web leggendo un giornale, e non credo che oggi si possa tornare indietro, si possa tornare ad una struttura chiusa che non è linkata con il resto del web. Però Enrico, troppo... scusa, intanto approfitto per salutarti, perché con Enrico ci conosciamo da lungo tempo. Esatto, avevamo le braghe corte quando abbiamo cominciato a fare il mestiere di giornalisti al secolo XIX di Genova. Esatto. Chiuso la parentesi dei ricordi e della nostalgia, dico, ma tu poco fa giustamente dicevi che però c'è il problema che su web il tempo dedicato all'informazione è molto piccolo, quindi la forma iPad potrebbe essere invece il luogo laddove, andandoci, ti soffermi molto di più, lo usi espressamente per le informazioni. Quindi probabilmente il problema poi non è tanto il mezzo quanto la qualità delle cose che ci metti. Fino adesso la logica è stata quella di prendere la roba stampata sulla carta e trasportarla su quel mezzo lì. Se cominciano a nascere, adesso io naturalmente vedremo come sarà fatto questo nuovo giornale di Murdoch, ma insomma se cominciano a nascere delle cose native, diciamo, cioè che sono specificatamente su iPad e non trasposizione di altri mezzi, forse comincerà a esserci una nuova categoria di media che sarà tutta da valutare, ovviamente. Ma infatti, guarda, la filosofia dell'iPad è quello: ti dà un'applicazione, ti scarichi un prodotto e lo paghi, e tu ti trovi il giornale confezionato, è un oggetto. Per esempio, rispetto al discorso del business, a parte il fatto che dobbiamo partire dal presupposto che per molto tempo, e in particolare in questi ultimi anni, i giornali stampati non sono un business, perché costano più di quello che guadagnano, e spesso la differenza o ce la mette lo Stato con le provvidenze, o ce la mette qualcuno che ha interesse comunque a governare quei giornali per ragioni terze rispetto al business, e quindi, diciamo, intanto dobbiamo partire dal fatto che quel modello di business è morto, per cui si dice sempre che gli altri chissà se sono un business, ma non è che lasciamo un business certo per un incerto, lasciamo un non business per un'incertezza. Allora io mi domando, l'iPad, visto che ha cominciato a far pagare sin dall'inizio, cosa che non succedeva su web, non potrebbe essere che invece quello è uno strumento giusto, perché comincia a esserci l'idea che se vai là devi pagare e non che prendi gratis? Sono certamente certamente sono certo che l'iPad rappresenti una cosa importante, ma credo alcune cose. Uno, che nasceranno altri iPad di altre case. Beh, che saranno sì, più aperti, e che forse potrebbero suggerire dei modelli, sì, di già ne stanno arrivando tantissimi, sì sì, figuriamo. Ci sono scusate? Sì, no, dico, stanno già arrivando tantissimi modelli alternativi, molti. A primavera, esatto. Sarà l'esplosione, ci sarà. E stanno nascendo altri modelli che proprio in questi giorni vengono lanciati. Ve ne cito uno perché secondo me è molto significativo. Si chiama OnGo.com. OnGo.com è uno strumento che consente di mettere insieme tanti giornali, 30, 40, 50 giornali. Un aggregatore, sì. Dentro, non è un aggregatore in senso classico, ci sono dentro il New York Times, il Washington Post, 10 o 15 giornali di McClatchy, che è una grande catena americana, ed altri. Chi si abbona e paga 6, 7, 8, 10 dollari al mese, a seconda dei casi, vede una pagina che è fatta dalla somma delle cose più importanti di tutti questi giornali. La somma che uno paga per accedere a questo servizio viene redistribuita tra i giornali sulla base di quanti articoli. Ma chi decide la gerarchia? La gerarchia decide on go, la decide il software sulla base dell'importanza. Cioè, io ti do un feed delle mie notizie e mi affido a te nell'impaginazione. Lo decide il software, nel senso che come dire, lo decide il software, ma lo decide, cioè il computer lo decide, o lo decide un giornalista applicato? Lo decide il lettore, che dà le sue preferenze. Ah, in base al profilaggio del lettore. Il lettore ha un suo, esatto, giornale personalizzato. In fondo, esatto, è un prodotto, diciamo, di risulta per il giornale principale. Cioè, io ti do il mio lavoro, poi se tu lo rimpagini, lo rimpacchetti e lo personalizzi e me ne viene qualcosa, è tutto grasso che cola per me. Alla fine è questo. 800 24 00 24, a tra un istante anche con i nostri ascoltatori dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. 800 24 00 24, stiamo facendo quella che può essere un'esplorazione anatomica dell'informazione nazionale. Guardiamo i giornali sul lettino dei morenti, oppure ancora sono i grandi saggi che ci forniscono le chiavi di lettura di una realtà che vediamo decodificata, raccontata comunque ogni giorno da noi frequentatori della rete. Questo lo domandiamo all'ascoltatore Claudio. Buongiorno. Buongiorno. Lei fa parte della schiera più avanzata di fruitori di informazione, perché lei si è abbonato ai giornali online, quindi consulta online i giornali. Sì, perché questo mi permette una semplice cosa. Io alle 2 e un minuto di mattina mi leggo La Repubblica, per dire, no? E quindi, cioè, perché altrimenti... Ma ha problemi di insonnia? Come mai alle 2 di mattina? No, sono sempre stato uno che dorme poco e ho la possibilità di alzarmi non prestissimo la mattina per lavoro, perché faccio un tipo di lavoro che mi permette, diciamo così, un attimo di giostrarmi. Però proprio io non riesco a fare a meno di andare a dormire, a meno che proprio non debba fare cose particolari, ma diciamo così, 999 su 1000, io alle 2 e un minuto mi leggo La Repubblica ogni giorno, e poi altri giornali. Cioè si legge, diciamo, il giornale cartaceo, perché online aveva già tutte, esatto, le notizie anche a mezzanotte, alle 1, sì, anche alle 3, cambia continuamente, certo, poi. Però perché il suo piacere di avere, diciamo, la rappresentazione elettronica del cartaceo che sarà in edicola, perché le notizie ce l'aveva anche prima e ce l'avrà anche dopo, in continua evoluzione. Ecco, se posso dire questo, le notizie sono una cosa, ma gli approfondimenti che un giornale ti dà per, ecco, devo vedere l'editoriale, dire, il fondo, questo. Che, certo, la cosa che per me è irrinunciabile. Assolutamente. Allora, il valore aggiunto che ancora danno i giornali rispetto alla velocità delle notizie che tutti abbiamo è il punto di vista, è l'analisi dei punti di vista. Carlo. Buongiorno Nicoletti, buongiorno Cisnetto. Buongiorno. Ci sono dei giornali che fin dalla loro nascita non hanno mai inseguito la notizia, sono giornali di approfondimento e giornali di opinione. Faccia un titolo, Il Foglio. Posso fare l'esempio di quello che leggo io, e Cisnetto sicuramente lo conosce molto bene, Il Foglio, e mi sembra anche un giornale di opinione non conformista. Sì, sì, di solo di opinione, un giornale che non è molto interessato a dare le notizie, un giornale che chiude molto presto la sera, perché una volta messo l'elenco delle opinioni è un esperimento. Da un punto di vista di ritorno economico non è il modello in questo momento più vincente, Cisnetto, sbaglio? Ma guarda, non c'è nessun giornale stampato che oggi sia un modello vincente dal punto di vista del business, quindi... Il Foglio ha le stesse difficoltà di tutti gli altri, naturalmente con un rapporto minore, cioè le voci sono, è più basso i costi, sono più bassi i ricavi di altri che hanno invece ricavi e costi maggiori, ma il differenziale tra costi e ricavi rimane sempre un problema per tutti. Detto questo, dal punto di vista invece giornalistico è uno straordinario esperimento che tra l'altro ha fatto scuola, perché poi sono nati altri giornali su quel Riformista e altri, ed è sicuramente un giornale citato dagli altri giornali, che è significativo. Poi questi giornali funzionano quando hanno un direttore carismatico, sennò altrimenti non hanno senso. Il Foglio era Ferrara, Riformista, fino a un certo punto. Diciamo che il Riformista ha rappresentato e dovrebbe rappresentare un ambiente, cioè un milieu, un luogo dove probabilmente non c'è solo una persona come Ferrara, ce ne sono di più, però rappresenta un certo mondo del riformismo, che non si riconosce, che fatica a riconoscerci nella sinistra organizzata, sia prima che diventasse Partito Democratico, sia anche e soprattutto quando è diventato Partito Democratico. Sentiamo Luisa. Luisa. Ah, buongiorno, sono Nicoletti. Io volevo dire che non rinuncio a leggere i giornali, per me è un piacere e ne compro 3 al giorno. Invece non mi piace leggerle su internet, perché lì bisogna andare proprio in cerca della notizia, che non sai se c'è o non c'è, e poi è brutto, bisogna, cioè, diciamo, gli occhi, non mi piace stare lì attaccata con gli occhi a internet, cioè è proprio scomodo. Vabbè, lei, diciamo, è il tradizionale fruitore di informazione, in via di estinzione naturalmente, perché quando lei anagraficamente non esisterà più, nessuno farà più questo discorso, però esiste, bisogna assolutamente con grande interesse tenere conto di lei, quindi dare a lei i giornali nella forma tradizionale, perché ancora... Anch'io ho sempre pensato come la signora, però ho cambiato idea. Devi cambiare idea, perché tu ci vivi su questo, la signora è importante per lei avere il contatto epidermico con la carta, con la testata che lei riconosce, con quel particolare impaginazione. È la tipica lettrice, quando un giornale cambia la grafica gli viene uno sturbo e bisogna portarla dal dottore. Abbiamo detto che l'opinione fa la differenza. L'opinionista in realtà però non fa sempre la differenza. Ho al telefono Claudio Nutrito. Claudio Nutrito, buongiorno. Buongiorno. Claudio Nutrito ha scritto un divertente libretto per Stampa Alternativa, Non ho niente da dire ma so come dirlo, trattato ad uso del moderno opinionista. Questa mattina leggevo un'intervista ad Alba Parietti dicendo: non mi vogliono più in televisione perché ero un opinionista che su ogni cosa aveva un'opinione. Tra Alba Parietti e i grandi fondisti dei giornali italiani esiste una possibile categoria, possiamo definire come l'opinionista accettabile medio, non quello che ha da dire tutto su tutto? Dunque, sì, diciamo che praticamente l'opinionista oggi, perlomeno quello che io ho descritto come il moderno opinionista, diciamo in contrapposizione a quello che potrebbe essere l'opinionista tradizionale, in realtà parla di tutto, e magari non è detto che esprima le sue opinioni, perché ci sono delle opinioni già così pronte, prête à penser, come si dice. E poi sì, ma anche un residuato del Grande Fratello, sotto ci scrive un opinionista dopo 2 stagioni che va in televisione. Sì, sì, anche perché poi, voglio dire, il moderno opinionista deve seguire tutta una serie di regole. Ecco, per esempio, innanzitutto il discorso di essere sintetico non è importante, anzi lui può benissimo uscire, usare proprio delle derive tematiche, aprire delle parentesi. Ma dove si forma? Si forma in televisione e poi tracima nei giornali? O accade esattamente il contrario? A me sembra che ormai l'opinionista si conquista la palma dell'opinionista in una frequentazione eterodossa in televisione, in un reality, in un talk show. È quello che strilla di più, quello che veste più singolarmente, è quello che si fa parlare di sé, poi ottiene uno spazio nei giornali e c'è il colonnino con l'opinione di... Beh, sì, diciamo che sui giornali poi addirittura tiene anche una rubrica con i lettori, scrivete a, ecco, questo diciamo può essere diciamo la riva dell'opinionista. E poi, cioè, il fatto del moderno opinionista in genere, adesso può sembrare anche così un ritratto un po' caricaturale, ma insomma forse qualcosa di vero c'è, può anche benissimo parlare anche di temi di cui non conosce. anzi addirittura non, lui stesso magari certe volte può non capire quello che sta dicendo. Guarda, accade, posso dire, te lo dico come esperienza personale, accade che ogni tanto mi chiamano e dice: ci dai un'opinione su questo? Dico: ma io che ne so, non ho mai praticato questa disciplina, non so nulla di questo, non mi interessa. Ma no, ma dici una cosa spiritosa, di quelle che sai direte, e quella diventa, questa è la palma dell'opinionista, poter dire cose singolari e spiritose su qualunque campo dello scibile. Sì, sì, diciamo, è il conformismo dell'anticonformismo. Ecco, non ci può essere l'obiezione di coscienza, no? Obiezione di coscienza che vuol dire: no, io di queste cose non parlo perché non le conosco. No, deve poter parlare su tutto. Cisnetto lo sa bene, io Cortina Incontra ho sollevato le donne sulle spalle alla fine, non sapendo più che dire sul palco di Cortina Incontra. Sì, anche se poi non, cioè anche se non capisco quello che dico, sono anche in grado di rispondere a delle domande che non capisco. Ma poi ci sono tutta una serie di, ovviamente, di catalogo, di antologie, l'indignazione virtuosa, il catalogo dei rimedi, l'elenco delle schiavitù. Che sì, poi adesso... c'è il ben pensante, c'è cioè quello che si arrabbia sempre, quello che è contro tutti, quello che dice le cose contro, quello che dice cose a favore, via dicendo. Concludiamo con Enrico Cisnetto. Abbiamo fatto, mi sembra, una panoramica veloce molto ma completa. Cerchiamo di capire allora cos'è che oggi faccia la differenza. Ci ha detto Nutrito che in realtà l'opinionista ormai è una fabbrica degli opinionisti, nasce attraverso alcune conferme di luoghi comuni e stereotipi, e sono quelli che dovrebbero in realtà fare la differenza. Ma siamo partiti dalla tua idea di autoformat personale. Oggi è possibile tracciare, se è possibile, una piccola profezia, non in tempi lontanissimi, in tempi vicini, dove andrà l'informazione? Ma guarda, io spero che vada dall'altra parte di dove sta adesso, nel senso che dovrebbe fabbricare con meno compulsione notizie, dovrebbe fabbricare con meno compulsione dibattiti finti in cui ciascuno recita una parte ma non c'è la discussione vera, e dovrebbe tentare di dare... dovrebbe fare anche meno inchieste di denuncia, perché siamo pieni di denunce e siamo scarsi di proposte. Abbiamo bisogno di proposte, di idee, abbiamo bisogno di approfondimenti veri e di discussioni vere. Io adesso, facendo anche a Roma, perché quello che parte adesso è un'iniziativa su Roma che assomiglia a Cortina Incontra, anche se naturalmente terrà conto delle differenze di condizione, adesso facciamo dei numeri zero, si chiama Aspettando Roma Incontra, e martedì 8 febbraio c'è il primo incontro che parla dello spazio dell'economia italiana nel mondo. Faremo un tentativo di portare proprio nel cuore, laddove le notizie di solito ci sono, che è Roma, un format che ha avuto successo. Quindi sei arrivato nel cuore della formazione notizie. L'attacco al cuore delle notizie. Grazie Enrico Cisnetto, grazie a Enrico Pedemonte che è stato finora al telefono, Valerio Rocchezza e Fabrizio Intonti, ci sentiamo domani. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.